Radio Onda Rossa 87 900, siamo in collegamento telefonico con Lampedusa, con Francesca. Ciao, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto? Mi senti? Noi sento malissimo, sentiamo adesso. Noi ti sentiamo molto bene, speriamo che tu senta altrettanto bene. Ci sei? Ci senti? Ora sì ti sento. Perfetto. Allora, ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Allora, innanzitutto l'abbiamo data anche al giornale radio questa notizia, sembra ci sia stato un corteo di tunisini che si è svolto questa mattina per le strade di Lampedusa, al grido di libertà, libertà, gli migranti si sono fermati nella zona del Porto Vecchio, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza e di una pompa di benzina. La zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Insomma, c'è stato questo corteo, permane comunque un clima di tensione piuttosto alto nell'isola, no? Sì, rimane un clima molto alto di tensione. E allora, io non ero lì questa mattina, ma quello che mi è stato raccontato è di un forte stress da parte della cittadinanza e contemporaneamente anche un grosso bisogno di questi ragazzi di uscire dall'isola. Quindi due bisogni che sono gli stessi, che i lampedusani vorrebbero che quel centro fosse addirittura chiuso, almeno parte dei lampedusani questo vorrebbero, e i migranti invece vorrebbero transitare molto velocemente. Sono tutti e due lo stesso desiderio, però stamattina si sono scontrati, con i lampedusani, con la polizia. Da quello che so io c'è stato una grossa tensione già al porto e voglio dire, i ragazzi ormai c'erano persone che erano dentro il centro anche da metà agosto, dal 20 agosto, per cui erano da molto tempo che erano lì e sembra che ieri si sia propagata la voce tra ragazzi che avevano fatto il rimpatrio. Ora, era il 29, è stata la prima volta che i ragazzi sono ribellati alla voce del rimpatrio, poi uscendo dal centro con quella notizia è stata riportata anche dai telegiornali. C'erano state altre due fughe, un'ultima volta di recente c'era stato un'altra volta una ribellione da parte dei ragazzi a questi rimpatri che, anche se non sono diretti da Lampedusa perché passano comunque da una città all'interno della Sicilia, all'interno dell'Italia, di fatto sono abbastanza immediate, avvengano in giornata. Ieri sembra che le persone che sono partite in mattinata siano state rimpatriate. Questo ha riscatenato una rabbia tremenda, almeno questo è quello che ci è stato raccontato noi anche da ragazzi stessi. Contemporaneamente ci sono lampedusani che sono stancati, non ne possono più, hanno avuto un'estate molto brutta, hanno avuto pochissimi turisti. A questo si aggiunge il fatto che che circa un centinaio di persone di Lampedusa su 6.000, che sono 6.000 gli abitanti di Lampedusa, lavora al centro, quindi immagino lo stress di chi sa di avere un amico, il fidanzato, il parente, il figlio dentro un centro che sta andando a fuoco, per cui sì, la situazione è molto tesa. Senti? Sì, sentiamo. Beh, insomma, che all'origine, insomma, di questo malessere, del grande risentimento e quindi anche della rivolta, degli scontri che ci sono stati ieri, era chiaro che ci fosse la questione dei rimpatri a cui i migranti tentano a loro modo con insomma le forze che hanno a disposizione di opporsi, chiaramente. Da questo punto di vista, la tua impressione qual è, Francesca? Questa situazione che si è venuta a creare sta accelerando le prospettive del rimpatrio e quindi in un certo senso è stata Ma una mossa controproducente, oppure tutto io... è bloccato? Pronto? Ecco, sì, dici. In questo momento quello che so io è che, allora, te considera il fatto che un edificio, un dormitorio è completamente carbonizzato, l'ho visto ieri dall'alto perché non si può entrare per questione di sicurezza, ed è completamente carbonizzato come si vede nelle foto. Gli altri due edifici, da quello che so, che ci hanno detto, a quello che si sa noi, non sono comunque praticabili. Quindi non esiste più il CPSA di Lampedusa. CSPA di Lampedusa. Per cui quello che stanno facendo e che è logico che facciano per il momento è spostarli da Lampedusa, mandarli in un altro posto. Organizzare una cosa di questo genere nel giro di 24 ore, di 48 ore non è tutt'altro che facile. Vedo improbabile che in tutto questo riescano a organizzare un rimpatrio, perché è veramente una situazione emergenziale. Per cui le persone, questo, cioè, non si sa, non c'è chiarezza su quello che succederà. Comunque le forze dell'ordine sono sovraccaricate di lavoro e non danno spiegazione, sicuramente non la danno a me la spiegazione. Quello che noi sappiamo di sicuro è che stanno comunque cercando di mandare delle persone, questo sì. E chissà, insomma, sì, diciamo, chissà quali destinazioni prenderanno queste centinaia di persone. Non lo so, so che ci sono delle persone che hanno delle invalidità forti, ci sono comunque dei ragazzi in carrozzina, c'è un ragazzo che cammina con le stampelle, è stata amputata la gamba dal ginocchio in giù, ci sono altre persone con altre problematiche di vario tipo, anche donne incinte, per cui non so quale sarà la loro destinazione. Ci auguriamo che riescano a organizzarsi così bene da riuscire a mandarne posti adatti a loro, però è anche vero che la situazione è fortemente in emergenza. Certo, e soprattutto, insomma, visti i precedenti, visto il clima, il clima che si respira oggi a Lampedusa. Io non sono andata a giro perché non è proprio il caso di andare troppo a giro, ma quello che mi è stato raccontato da persone, da giornalisti che sono sull'isola, è che è veramente l'attenzione alle stelle. Senti, dal punto di vista appunto della popolazione, di come sta vivendo quella di Lampedusa questa particolare situazione, certo, insomma, quantomeno a sentirle da qui non ci sembra che le parole del sindaco stiano dando una mano, nel senso che poi quando ci si riferisce a una situazione di guerra, almeno a noi sembra, insomma, che si dà quasi la stura a poi atteggiamenti che crediamo siano totalmente da evitare, insomma, di stampo, insomma, non dico xenofobo, ma insomma di intolleranza. Ecco, non vorremmo che ci fossero episodi di questo tipo. D'altra parte, la situazione fino adesso è rimasta entro certi margini sotto controllo, nel senso che poi episodi di intolleranza è stato difficile registrarne fino a oggi, no? Ma senti, la popolazione di Lampedusa è di solito molto accogliente, ma anche molto calorosa. Ieri sì, ho letto e ho sentito anch'io quello che è stato detto dal sindaco. Non so che dire, cioè, nel senso, io richiamerei forse più la popolazione a restare tranquilla e casomai il governo a fare il proprio compito. È andata così, ha detto quello che ha detto e spero che non influisca. Comunque ci sono molte persone che continuano a essere persone molto accoglienti. È stato detto sì che ci sono state persone molto arrabbiate e infuriate, però abbiamo anche saputo dire episodi di solidarietà. Io ho una grandissima fiducia e stima nei confronti dei lampedusani e voglio sperare che comunque non si arrivi a episodi di grossa intolleranza, di caccia all'uomo, cose di questo genere. Forse è stato un momento, hanno parlato di pancia, non lo so. Mm-hmm. So che comunque c'è molte persone che non stanno reagendo in maniera violenta, ringraziando il cielo, magari, sai, dappertutto ci sono comunque persone che pensano in tante maniere. Sappiamo anche di episodi di solidarietà, questo sì. Questo chiaramente. Vogliamo sperare che comunque la situazione si calmi, si stemperi, tutta la tensione che c'è, e sicuramente è importante in questo momento che non ci siano altri rimpatri, questo è veramente augurabile. Voglio dire, quando c'è un centro pieno di 1000 e passa persone, si parla ieri sarà da 1200 persone, fare rimpatri da Lampedusa non è stata un'idea senza dubbio geniale, anche perché si va a creare una tensione su tensione. Speriamo adesso che si limitino a portarli via qui da Lampedusa, che si ritorni a una situazione di tranquillità, che è dovuta sia a Lampedusani ma anche a queste persone che si sono trovate ammassate in un centro che comunque era piccolo rispetto alle persone che c'erano, cioè persone che non che stavano in una situazione di disagio, non tutti riuscivano a trovare un posto letto, e poi in questi giorni ha fatto anche molto freddo rispetto a Lampedusa. Per cui si spera che riesca a riportare in un posto che sia veramente di accoglienza, senza più creare tensioni, che non è il caso. E soprattutto, insomma, che magari si velocizzino tutte le pratiche che fino adesso il governo, i ministeri hanno teso invece a impantanare, no? Quelle relative ai diritti d'asilo, agli permessi. Ma diritti d'asilo, ma poi ci sono anche tante altre situazioni. Comunque ci sono persone che raccontano di avere dei figli in Italia, persone che comunque abbiamo un caso di un ragazzo che ha la madre italiana e che stavano facendo gli accertamenti per poterlo liberare. Speriamo che questa persona raggiunga direttamente la sua madre a Torino. Insomma, ci sono tanti casi, vanno presi tutti in considerazione, perché poi ci sono tante storie personali che riguardano sia appunto la persecuzione politica, certamente, ma anche un insieme di altre problematiche, le problematiche di salute e via dicendo, che devono essere tutelate e prese in considerazione. Ovviamente con un centro sovraffollato diventa tutto molto più difficile, e con questa politica è stata portata avanti appunto dei respingimenti direttamente, non direttamente ma quasi direttamente da Lampedusa, ha creato solo esclusivamente un clima di tensione che sinceramente non ci voleva. Cioè, comunque non è stata una cosa estemporanea, abbiamo assistito a varie fasi di crescita di questa tensione, appunto, che si è manifestata all'esterno la prima volta del 29 con la fuga di massa dal centro. E c'era dal 29 a oggi, siamo dal 29 agosto, oggi siamo al 21 settembre. C'era tempo di pensare che la situazione sarebbe comunque peggiorata. Noi lo stavamo avvertendo, l'abbiamo dichiarato varie volte, la situazione stava degenerando e che bisognava liberare veramente questo centro e fare gli spostamenti molto velocemente. Poi tra le altre c'è stata anche una notizia strana che è arrivata, no? Che è arrivata e scomparsa contemporaneamente dai siti internet, di quel blocco che c'è stato da parte della Tunisia per i rimpatri. Beh, da quando è arrivata questa notizia dentro il centro, i ragazzi hanno fatto festa, si è creato un sacco di aspettative, anche questo ha contribuito poi, quando hanno sentito riparare dei rimpatri, a creare una situazione di ulteriore tensione. Beh, è chiaro, insomma, che se insomma la sensazione è quella che si può rimanere in Italia e poi subito, insomma, contraddetta da altro tipo di dichiarazioni, è chiaro che la miccia, insomma, facile che esploda. Perché qui sembra appunto che ci sia stato proprio un atto, quello di riportarli direttamente qui. Certo, questo ha fatto scoppiare un macello. Lampedusa doveva, ora non so cosa succederà nel futuro, doveva rimanere un centro d'accoglienza per poi spostare le persone da un'altra parte. Doveva rimanere un centro d'accoglienza di primo soccorso per poi spostare le persone da un'altra parte. Va bene. Aspettato. Va bene. Senti, Francesca, ecco, no, sì. Non siamo noi che ringraziamo te. Buon lavoro e magari ci risentiremo nelle prossime giornate, d'accordo? Ok, grazie, ciao. Ciao.